Mix 24 di Giovanni Minoli. Virginia Raggi, 37 anni, romana di San Giovanni, sposata con un figlio, laureata in giurisprudenza nel 2011, inizia a fare politica col Movimento 5 Stelle. Eletta consigliere comunale nel 2013, si occupa soprattutto di scuola e di ambiente. Vincitrice delle comunarie online con 1.764 voti e la candidata sindaco a Roma per i 5 Stelle. Il sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera la colloca in testa alla graduatoria delle intenzioni di voto con il 27,5% delle preferenze. Allora, avvocato Raggi, adesso ufficiale, a Roma è favorita, che effetto le fa? Beh, un bel effetto, ma direi. Ma lei ci crede ai sondaggi? No, in realtà non molto, però credo alle risposte dei cittadini. I cittadini, sì, insomma, sono con noi. Alla fine abbiamo lavorato per 3 anni per raggiungere questo risultato, quindi ha un po' paura, contenti, di questa esplosione di notorietà o no? Ma no, no, ci, alla fa fine ci si farà anche l'abitudine, insomma. Che cosa la gratifica di più? Sapere che molti cittadini sono con noi e ci apprezzano. E che cos'è più difficile da gestire? Difficile da gestire di questa notorietà, voglio dire. Ma all'inizio è stato un po' complicato, sì, il rapporto con i fotografi che mi inseguivano. Ah. Adesso sono diventati più discreti, secondo me non li vedo più. Non li vede più, quindi sono più pericolosi. Senta, come avversario chi teme di più? Un po' l'astensionismo. Mi fa paura queste le previsioni del 50% di astensionismo. Senta, ma è possibile che alla fine al ballottaggio, se ci sarà, ci siano due donne, lei e la Meloni? Sarebbe una rivoluzione. Ah, forse sì. Senta, da donna pensa che la Meloni abbia fatto la scelta giusta? Ha fatto la scelta che voleva. Che voleva? Voglio dire, ma cioè, nelle stesse condizioni lei si sarebbe candidata? Io ho lavorato fino alla settimana prima della nascita di mio figlio, quindi... Quindi si sarebbe candidata? Forse sì, non forse lo so. Sì. Non lo sa, non ci ha pensato, ci avrà fatto una riflessione questi giorni? In realtà no, non è un tema che mi appassiona, continuiamo a lavorare. Vabbè, a lavorare d'accordo, però uno riflette, no? Sì, e beh, non si può fare, diciamo, la storia, non si può riflettere con i secoli, ma se quando dovessi essere di nuovo incinta e mi si dovesse presentare un'occasione del genere, vabbè, ci penserò. Ne parleremo. Senta, lei è stata candidata con 3.843 voti online. Sono una garanzia di democrazia sufficiente, secondo lei? Ma sono una garanzia della qualità del voto, sono tutte persone incensurate, sono tutte persone che hanno seguito la nostra attività in questi 3 anni e che si sono registrate al blog di Grillo. Ma questo vale anche se la piattaforma è gestita in esclusiva da Casaleggio? No? Non è proprio così, perché durante le votazioni c'è una società terza che certifica il che voto. Che controlla. Sì. Senta, il candidato del PD, Giachetti, è stato scelto da 20, più o meno 28.000 votanti. È una differenza che vale oppure no? Sono forme diverse? Sono forme diverse, sappiamo che ci sono molte schede bianche, ci sono stati brogli in altre città. Francamente io ritengo un po' difficile che pensare che la mattina ci si svegli per andare a votare scheda bianca. Quindi... Ogni formazione politica fa quello che può. A Torino invece la candidata Appendino è stata scelta senza neanche un sondaggio online. Ogni città ha la sua regola, no? Sì, ogni città si autodetermina. Lei dice che i giornalisti stranieri vogliono parlare di programmi, quelli italiani vogliono parlare di gossip. Noi parleremo di entrambi. Va bene. Intanto il suo mantra è trasparenza, trasporti, rifiuti e io aggiungerei topi. Perché lei sa che è un'emergenza assoluta. Assoluta. Ha un'idea per come affrontare il problema dei topi? Guardi, l'idea ce l'abbiamo avuta già da 3 anni. Bisogna fare interventi periodici di derattizzazione, pulire, continuare a pulire in maniera costante, eliminare i rifiuti, sfalciare i prati, quindi tenere la città pulita. Pulita. I topi, sì, piano piano non tornano. Trasparenza, cioè per lei vuol dire soprattutto... online i conti del comune, così, no? Mi sembra. Online gli appalti, consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini. E su questo abbiamo avuto riscontro anche da parte del dottor Cantone. Anche secondo lui questo è un ottimo modo. Un'ottima strada. Una volta online i conti e i debiti del comune, gli appalti, si risolve tutto, no? No, non si risolve tutto. Una parte è la trasparenza, quindi consentire ai cittadini di controllare e sapere, far sapere all'amministrazione, quindi anche noi un domani quando entreremo, far sapere che abbiamo il fiato sul collo dei cittadini. Ecco, ma lei e poi bisogna comunque applicare le norme, perché ad oggi quello che ci è stato fatto vedere è che le norme erano costantemente disapplicate. Ecco, dottoressa, però avvocato, no? Avvocato Raggi, senta, l'ipotesi di fallimento del comune la mette tra le possibilità reali? reali per risolvere problemi del debito oppure no? No, francamente no. No? No, beh, in certi paesi, in America per esempio, è capitato, insomma, si è ripartiti dal fallimento. No. Beh, no, penso che il fallimento... Non siamo lì. Assolutamente, ma metterebbe la città in una situazione drammatica. Ecco, ma quanta macelleria sociale pensa di dover fare in un comune che ha un soprannumero di addetti così e un record di assenteismo? No, io penso che più che fare macelleria sociale si debba innanzitutto andare a incidere sugli sprechi, cosa che sino ad oggi non è stata fatta. E poi bisogna riorganizzare il personale. Abbiamo Abbiamo tanti dipendenti no, e sono male organizzati. Sì, no. Ma secondo me no. Prima non di è troppo. Ah. Guardi, prima di tutto bisogna riorganizzarlo. Se all'esito di questa organizzazione, capiremo se è troppo o troppo poco. Mm. Ad oggi non è mai stato organizzato. Beh, si continua solamente a dire che bisogna prendere, bisogna assumere persone. Prima organizzare e poi capire. Vabbè, insomma, Grillo spesso ha detto che il debito pubblico italiano andrebbe cancellato. Mm. Ecco, vale anche per Roma, cancelliamo il debito per risolvere il problema. Io direi che il debito di Roma andrebbe innanzitutto fatto ripagare a chi l'ha creato. Sì. Perché 16... cioè a chi? Beh, i partiti che sostanzialmente hanno gestito la città come fosse cosa... Lei pensa che i partiti possono ripagare il debito Guardi, di Roma? Un miliardo? Parliamo di 16 miliardi. 16, ecco, sì. Beh, politici e amministratori, non so se questo sarà mai possibile, perché in Italia chi sbaglia in questo senso non paga mai. Però inizierei a essere contenta se per esempio il PD pagasse l'affitto della propria sede, 170.000 euro a via dei tribunali. Cominciamo da lì, per cominciamo i 17 miliardi arriviamo. Cominciamo da lì. Ci vuole un po', ma noi pazienza ne abbiamo. Ne abbiamo tanta, va bene. Senza trasparenza è anche scrivere sul curriculum, se ne è parlato molto, di aver lavorato nello studio. Ma perché non l'ha fatto? Perché generalmente non si fa. Beh, uno racconta quello che ha fatto, dice tutto più o meno, no? Non c'è da vergognarsi. Non mi vergogno, tant'è vero che a domanda ho sempre risposto. Ma allora avrei dovuto scrivere anche i ristoranti presso i quali ho lavorato. E magari se cosa un ristorante poi fosse... Nei ristoranti cosa ha fatto di bello? Facevo la cameriera. Dove? A Roma? Sì. A San Giovanni? Dalle parti di Porta Pia, San Giovanni Porta Pia. Senta. È pentita di aver detto che cambierà i vertici della CEA oppure ha fatto bene? E perché dovrei essere pentita? Lo chiedo a lei, io non lo so. No, assolutamente, anzi io credo che un sindaco dovrebbe dire che cosa intende fare non solo della città ma anche delle municipalizzate e in questo caso di ACEA, che è una quotata, visto che sono società comunque del comune. ACEA per il 55% è ancora del comune. Mentre abbiamo visto che il PD è partito, lancia in resta a difesa del socio privato. Beh, no, non va bene, insomma. No, direi io non che ho detto che va bene. Ho il detto comune va bene. Deve fare il comune. Senta, li cambia con chi? Con chi li cambia i vertici? Vedremo. Innanzitutto andiamo a capire esattamente che cosa hanno fatto in questi anni, come sono stati fatti gli investimenti. Beh, se dice che reti. Li cambia vuol dire che ha già fatto questa valutazione. Sì, stiamo iniziando a fare questa valutazione. Ma se ha detto che li cambia vuol dire che lo sa. No? Va bene, non è che posso svelare tutto adesso. Sicuramente ci sono delle operazioni da fare, ci sono delle attività da fare. Ha dei nomi in testa già, Forse. Non vedremo. Assolutamente. Senta, ripeto, ACEA deve continuare, deve fare quello per cui è nata, deve lavorare sull'acqua, fare investimenti sulle reti. Senta, c'è chi pensa, come Veltroni ho letto, ex sindaco di Roma, che senza il messaggero a Roma si perde. Lei vince contro il messaggero invece, mi pare di capire. Vedremo, questo lo diranno i cittadini. Vabbè, ma le fa paura il messaggero contro o a favore, sì o no? Ma guardi, da quando siamo nati abbiamo la stampa contro, ci siamo tutta, un po' curati. No, non tutta, non sempre, soprattutto in questi ultimi tempi. Però la vittima non serve. No, però ci siamo corazzati. Senta, lei ha anche detto mi aspetto una valanga di attacchi come quello della CEA. Qual è il prossimo che si aspetta? Ah, questo non lo so. Il problema è che quando iniziamo a pestare qualche privilegio qualcuno si vuole sveglia. Pestare il prossimo privilegio che pesta qual è? Vedremo. Ma non mi dice niente, sembra una democristiana, non una 5 Stelle. È vero, beh, innanzitutto noi continuiamo a dire che bisogna attaccare gli sprechi, che bisogna sistemare le partecipate. Insomma, di nomi lì ce ne sono, chi vuole? Senta, e quindi sta pensando di cambiarle tutte come la CEA, visto che vanno tutte male. Ma innanzitutto è la stessa legge e lo stesso governo che ci ha detto che dobbiamo razionalizzare con il Salva Roma. Ci hanno dato una linea ben precisa da seguire. Considerate che noi a Roma abbiamo una moltitudine di circa 80 società partecipate, tra partecipate di primo livello, secondo e terzo livello, e questo significa anche moltiplicazione di poltrone, moltiplicazione di management, naturale. Quindi bisogna anche capire esattamente cosa fanno, come stanno procedendo, e poi riaccorpare, riorganizzare. Avvocato Raggi, ma per cambiare nella CEA come nell'ATAC, il sindacato lei lo vede come un alleato o come un ostacolo? Ma quando il sindacato fa il sindacato, quindi tutela i diritti dei lavoratori, secondo me è un ottimo interlocutore. E per lei? Per lei? Quando iniziano a fare politica e non a difendere i lavoratori, diventano problematici. Perché adesso abbiamo iniziato a calendarizzare incontri, la prossima settimana li incontriamo in maniera istituzionale. Insomma, questo faccia a faccia glielo sto facendo troppo presto? No, assolutamente. Abbiamo potuto parlare in questi anni con i sindacati, sì. E in alcuni casi abbiamo anche portato avanti delle battaglie insieme. Tuttavia non vi è dubbio, ed è sotto gli occhi di tutti, che spesso i sindacati hanno un po' travalicato il loro ruolo. Senta. Allora noi chiediamo che tornino a fare gli interlocutori rappresentativi dei lavoratori. Senta, avvocato Raggi, per rendere efficienti le municipalizzate, la privatizzazione è un'opzione che prende in considerazione oppure no? Ma io credo che questa opzione è quella che viene cavalcata spesso dai soliti partiti. No, chiedo lei. No, secondo me no, perché vede, quando le municipalizzate... Lei è più per la razionalizzazione mantenerle pubbliche. Quando le municipalizzate svolgono servizi pubblici, devono essere rese efficienti in modo tale che il pubblico possa svolgere in maniera efficiente quel ruolo. Vedrà che un po' di macelleria sociale la dovrà fare per realizzare questo. Ma mi auguro di no. Speriamo, io me lo auguro per chi... eventualmente dovesse perdere il posto nel vostro programma. Però non seminiamo panico, perché così non è corretto. Domande reali. Io non credo questo, credo anzi che ci siano molti dipendenti che abbiano voglia di ricominciare a lavorare in maniera corretta e in maniera anche efficiente. Parlavo del numero, non della qualità. I primi destinatari poi di politiche sbagliate, di un'amministrazione che non funziona. Senta, nel vostro programma si parla poco degli interventi a favore delle famiglie, è una scelta? Ma in realtà gli interventi a favore delle famiglie detti così possono sembrare uno slogan. Noi andiamo e puntiamo sui servizi che poi coinvolgono tutte le famiglie. Parliamo per esempio degli asili nido, parliamo delle politiche sociali, ossia tutto quel settore di interventi che l'amministrazione deve svolgere in favore delle persone più fragili, per esempio gli anziani, i disabili. Pensi che ad esempio, secondo il governo, quando una persona autistica ai 18 anni non ha più diritto all'assistenza, come se a 18 anni si guarisse. Allora le politiche sociali debbono tornare a fare le politiche sociali e automaticamente le famiglie vengono aiutate. Senta, parliamo di trasporti. L'ATAC con 11.000 dipendenti dà il servizio, così si dice, peggiore d'Europa, 1,5 miliardi, 1,8 miliardi di debito, mi corregga se sbaglio. 1,5 miliardi, sì, corretto. Stavolta ci ho preso. Però senta, è vero anche che quel miliardo e mezzo va messo in correlazione con i 700 milioni di credito. Allora, innanzitutto bisogna efficientare. Preciso. Qui tagliare gli sprechi, sappiamo. Che significa ridurre gli appalti, andare a incidere sulla leva dei ricavi. Noi abbiamo un'evasione stimata di 100-120 milioni di biglietti, insomma. Sì, che non mi sembra una cosa normale, non mi sembra una cosa marziana. Quindi andare a recuperare risorse, tagliare i costi e poi incrementare il servizio, ossia dobbiamo far girare, dobbiamo prendere autobus, dobbiamo far girare più autobus. E questi sono investimenti che con una seria politica di taglio agli sprechi e di recupero dell'evasione... Lei pensa dell'evasione... di recuperare di lì i soldi per gli investimenti? Sì, assolutamente. Ecco, restiamo ai trasporti. Lei pensa, così ha detto, se ho capito bene, di rivoluzionare anche quello dei, mi sembra, 160-180 mila carichi scarichi di merci quotidiane a Roma che per rifornimento dei negozi. Ecco come? Beh, innanzitutto noi abbiamo visto dei modelli che già sono applicati in altre città e funzionano, ossia creare dei mini hub, delle piccole piattaforme di carico-scarico al di fuori del centro storico, all'interno delle quali avvengono queste operazioni, vengono caricati camion, anche piccoli, furgoncini, si può pensare anche elettrici, che poi distribuiscono al centro e quindi viaggiano pieni, ne viaggiano meno e poi soprattutto più piccoli di quelli che forniscono, saranno tanti, ma non è detto di più, perché oggi spesso viaggiano camion completamente vuoti. Girano in velocità. Senta, magari rivoluzionare anche gli orari. Gli orari di cosa? Del carico e scarico merci, cioè magari prevedere delle fasce ben precise in modo che non paralizzino la città negli orari di, entrata nelle scuole, entrata negli uffici. Senta, ma è importante essere romani per essere sindaco di Roma, secondo lei? Secondo me sì. Perché? Perché Roma è qualcosa che respiri, che vivi tutti i giorni. Se vieni da fuori hai una visione parziale della città, non la vivi. Lei è arrivata qui sul pelo dell'orario della diretta, mezz'ora in ritardo. È sempre in ritardo oppure sono i trasporti romani che l'hanno fatta arrivare in ritardo. Devo dire che oggi ho tentato di prendere treno e auto e metro, non sono riuscita ma a coordinare. Ma normalmente è puntuale? Ma sì, tendenzialmente ci prova. Sì, sì. Lei come gira per Roma normalmente? Allora, generalmente mi avvicino in centro con la macchina. Oggi ho preso il treno, non sono riuscita a prenderlo bene perché era troppo pieno. Vabbè, mi avvicino in centro con la macchina e poi quando sono in centro vado a piedi quando posso e metro, autobus. Senta, qual è la cosa che la fa più arrabbiare quando gira per Roma a piedi? Quando giro per Roma a piedi è la maleducazione delle auto che parcheggiano ovunque, anche sugli scivoli per i disabili, sui marciapiedi e poi tutto il degrado, lo sporco. Questo sì. Senta, i 5 Stelle sono da sempre sensibili all'emergenza abitativa, invece avete sempre fatto delle battaglie in questo senso. Da sindaco, qual è la prima cosa che farà per questo problema? Ma innanzitutto cerchiamo di rimettere in funzione lo scorrimento delle liste d'attesa, delle graduatorie. Sì. Sono ferme da anni, noi abbiamo ancora i nuclei 1 e 2 e 3, quindi quelli composti da una persona, due o tre persone, che provengono dal bando del 2000. Quindi, immagini. Sono da aggiornare. Sono da aggiornare, bisogna liberare un po' di immobili, bisogna riprendere, risistemare un po' di immobili e far entrare le persone. Ma per fare tutto questo occorre un censimento. Lo stesso Tronca, quando è arrivato a Roma, ma si è reso conto che il Tronca, censimento, facendo il censimento, ha scoperchiato questo scandalo degli affettopoli, quindi vi sta dando una mano, diciamo che lo scandalo l'avevamo visto già da tempo. Vabbè, però lui sicuramente lui ha inciso molto sul primo municipio. Cioè, sta facendo municipio. Bene Tronca secondo ma lei? Ma sul primo municipio mi sembra che abbiano iniziato a trovare qualcosa. Sicuramente questa attività deve continuare e deve andare su tutti i 15 municipi. Insomma, che voto dà Tronca finora? Beh, guardi, Tronca ha fatto anche alcune cose di facciata e per adesso si sta anche intestando alcune attività che a mio avviso sono molto pericolose e riguardano scelte politiche, cioè? Non scelte di ordinaria amministrazione. Adesso ci sarà da rinominare le posizioni organizzative che sono dei super funzionari del Comune di Roma. Il loro contratto, la loro mansione è molto importante, i loro contratti sono scaduti già dal 2013, quindi abbiamo 2 anni di proroghe. Visto che le nomine vengono fatte dai dirigenti e dai direttori, sono nomine di tipo politico. Allora, quindi Tronca lei dice vuole che non deve farle? Tronca, io mi auguro che aspetti, che continui questa proroga ancora un mese, che non cambia nulla a fronte di 2 anni di ritardo, lei e lasci decidere alla futura amministrazione. Non deve fare queste nomine, Tronca non deve fare le nomine. Lei crede veramente che Roma sia la città più corrotta d'Italia? Guardi, la più corrotta non lo so, sicuramente è molto corrotta. Molto vicino. Ecco, ma dopo l'intervento di Pignatone con Mafia Capitale, ha la sensazione che qualcosa sia cambiato oppure no? Quantomeno la consapevolezza da parte dei cittadini e da parte di molti dipendenti, io credo di sì. Ma c'è un sindaco nella storia di Roma che le piace, che lei considera in qualche modo un riferimento? Ma guardi, non lo so. O siamo all'innovazione totale? Io vorrei provare a fare qualcosa di diverso. Non so, Nathan, che ne so. Ma sì, sicuramente molti sindaci del passato, però la città è diversa, le condizioni sono diverse. Io ritengo che oggi la città abbia bisogno di qualcosa di completamente diverso che passa per la partecipazione dei cittadini. Senta, i 5 Stelle chiedono ancora le dimissioni del ministro Boschi? Anche quelle di Renzi, direi. Sì, tutte e due? Beh, è notizia, adesso se l'è intestata, è notizia recente, appunto, si è intestato tutto questo emendamento. Quindi? E quindi se si dimette il ministro Guidi, evidentemente qualcosa chiedete le dimissioni di Renzi. Forza. Senta, lei pensa che Renzi e la Boschi potessero non sapere quali erano gli interessi del compagno del ministro Guidi? Assolutamente no. E se non sapevano è alquanto sconveniente, no? Perché? Perché un primo ministro deve sapere e che cosa sta portando in aula. Addirittura se si intesta la battaglia vuol dire che qualcosa la sapeva. E quindi sì alle dimissioni? Per forza. Adesso una mozione adesso? Sì, di sicuro. Senta, che voto dà il governo Renzi? Zero? Assolutamente, tanti slogan, tanti annunci. Non c'è proprio niente che le piace di Renzi? Beh, che sta per andare via. Ah, questo. Senti, questo dice lei, insomma. Molti, auspicabilmente. Molti pensano che senza dirlo, quasi tutti puntino sulla sua vittoria, anche i suoi avversari, per incastrare i 5 Stelle nella gestione di un disastro come quello di che Roma. Hanno creato loro e adesso se ne vogliono lavare le mani. Noi in realtà siamo molto protesi al sacrificio. Noi vogliamo vincere e vogliamo ricostruire questa città. Senta, ma noi è un onore, non è un sacrificio. Per fare il sindaco di Roma, qual è la qualità principale che bisogna avere secondo lei oggi che la città è tutta diversa? Coraggio, coraggio nelle scelte e coraggio di dire le cose come stanno. Parlare ai cittadini e dire anche, signori, la città è in queste condizioni. Sappiate che non abbiamo la bacchetta magica, ci vorrà del tempo, ma insieme riusciremo a ricostruire. Lei sa che dopo 3 mesi tutti pensano che è la colpa sua se le cose non vanno bene. Eh? Lei ce l'ha questo coraggio? Io penso di sì, anche perché ho le spalle coperte, siamo una squadra. Ma quando ha scoperto di avere questo coraggio particolare? Perché questa è una cosa personale proprio. Non lo so, diciamo che ho scoperto di avere questa determinazione strada facendo e vivendo, sì. Lavorando tutti i giorni nell'amministrazione e capendo che così non si può andare avanti. Senta, a Casaleggio, così ho letto, le ha consigliato di rimanere se stessa. Cioè se stessa cosa vuol dire? Perché dovrebbe cambiare? Di continuare a rimanere così determinata e con la forza di andare avanti. Ma che cosa non vorrebbe perdere di sé? Ma niente. Che cosa avrà paura? Qualche cosa che le fa paura? Dice, oddio, questa situazione mi mette in difficoltà qua e là? No. No, perché alla fine quello che sono oggi è nel bene e nel male il frutto di tutte le mie componenti, chiamiamole così. Quindi. Ecco, Avvocato Raggi, ma qual è il suo peggior difetto? Questo non lo posso mica dire io. No, lo può dire. Se non lo può dire vuol dire che si analizza poco. No, non lo so. Forse sono stata forse troppo timorosa in passato. Ecco, adesso piano piano sto iniziando appunto ad prendere avere più coraggio. Sì. Senta, è la qualità invece di sé a cui tiene di più? Ma questa determinazione, devo dire... Mi piace. Se l'è scoperta strada facendo, sì. Anche questa. Sì. Sì. Senta, abbiamo detto dello studio Previti, del voto al PD. C'è qualche altra cosa che non sappiamo, magari un gossip, che potrebbe uscire da un momento all'altro e che la potrebbe mettere in imbarazzo? Ma non lo so. No? Non so. No? No, sicura? Guardi, sicura ormai, non lo so, il frigo con qualche cosa di scaduto dentro. Ah sì, questo è possibile, sì. Un giornalista che viene a vederlo, insomma, no. Nessuno scheletro nell'armadio? Ma penso né di no. Né privato né pubblico? Guardi, mi mette... adesso ci penso, poi le farò sapere, così su due piedi direi di no. No? Senta, sentiamo cosa dicevano di lei i compagni e i professori. Virginia è una ragazza seria, una ragazza preparata, convinta di quello che fa. Ecco, una cosa che sicuramente non avrei detto di Virginia è che si sarebbe poi candidata a sindaco, perché non era una leader, non è stata mai rappresentante di classe, non era una che spiccava per carisma, non era una secchiona, nel senso non era di quelle noiose, boriose, no. Ha dimostrato spiccate attitudini per le discipline linguistico-letteraria e il percorso di studi è stato veramente eccellente, con una maturità di 55-60, che non è poco, anzi. E studiosa deve aver continuato ad esserlo anche all'università, se il suo professore della tesi gli offrì subito un posto da praticante avvocato nello studio dove all'epoca lavorava lui, lo studio Previti. Mi sembra una cosa, conoscendola, più lontana possibile da quello. Poi lei l'ha confermato dicendo che quando ha iniziato a votare ha votato per il PD. Vabbè, ho dato PD, questo è un altro errore. Peggio, meglio. Partiti peggio di sinistra. Peggio questo o peggio Previti? Com'è andata? Ma guardi, in realtà alla fine su Previti abbiamo detto. Sulla detto sinistra sono rimasta molto delusa. E quindi... Ma hai riconosciuto le voci? Sì, di sì, sì, sì, sì. Compagne, professori. Compagne, è vero, a scuola non ero molto né secchiona né ero una leader. Ero... Senta, vabbè, ma così. Sta spiegando che lei è un diesel che viene fuori lentamente. Senta. Sì, diciamo che mio figlio è stato un po' il catalizzatore. Quanti anni ha suo figlio? Adesso 6. Che classe fa prima? Seconda? L'anno prossimo, adesso finisce la materna, la scuola d'infanzia. Che cosa vorrebbe essere sicura di riuscire a insegnargli? La volontà e la capacità di essere se stesso sempre, comunque. Come si chiama? Matteo. Matteo pericolosissimo, mamma mia, aiuto. Senta, di sé lei ha detto, sono cattolica non praticante, cioè? Che non riesco ad andare a messa la domenica. Perché praticare vuol dire andare a messa domenica, no? Beh, diciamo questa è una parte. Per il resto poi cerco, insomma, di portare quelli che per me sono i principi più importanti del cattolicesimo, che è il rispetto di sé e degli altri, la compassione e la condivisione all'interno di tutte le azioni della mia vita. Le piace Papa Francesco? Sì, direi di sì. Perché mi sembra molto rivoluzionario, molto attento all'ambiente, attento agli altri. È una persona estremamente rispettosa. Condivido molte delle sue idee. Senta, avvocato Raggi, il Movimento 5 Stelle cresce, nascono anche i primi scandali. Che effetto le fanno? Ma in realtà le dico una cosa, a me sembra che il Movimento 5 Stelle sia stato molto bravo a prendere immediatamente le distanze dalle persone che in qualche modo hanno provato a macchiare questa. Lei è d'accordo con la multa di 150.000 euro per chi tradisce la linea del Movimento? La multa di 550, sì, ho un po' esagerato. Ma sì, perché la politica ci ha abituato. Quindi è d'accordo. Ma sì, perché vede, è anche brutto e secondo me è incoerente e tradisce la fiducia degli elettori quando ci si candida con un partito portando avanti determinati programmi sì, e diciamo. Idee poi cambiarle in corsa. Allora è più onesto e coerente dire io non condivido più questo programma, non condivido questo movimento, me ne vado, mi dimetto e lascio che qualcun altro porti avanti queste idee. A Torino però l'Appendino invece non la applica questa teoria. Ogni città si autodetermina. Sì, sì, assolutamente. Poi noi... tanto? Ma adesso inizieremo, credo. Insomma, c'è stato forse tutto conviene questo... qualche piccolo. Sì, sì, no, ma ci... più che altro sui programmi, sulle cose c'è molta condivisione perché comunque abbiamo una visione comune e speriamo che i cittadini, insomma, l'approvino. Senta, in compenso, però, a Torino si prevede una specie di primarie per scegliere i candidati assessori. Lei com'è in mente di fare per scegliere invece? Beh, abbiamo intanto stiamo visionando un po' di persone, sì, stiamo visionando, esaminando persone e curriculum e poi vedremo, magari faremo delle primarie, per adesso non è ancora definito. Ma lei comunicherà i nomi prima delle elezioni? Ma se riusciamo sì, riusciamo l'ho sempre detto. Insomma. Rutelli, l'ex sindaco, dice che l'inesperienza è una virtù che può funzionare in campagna elettorale, ma per governare il caos di Roma ci vuole una classe dirigente già pronta, che sappia almeno come si fa una delibera. Ha ragione o no? Beh, innanzitutto diciamo che la classe... lei lo sa come si fa una delibera? Sì, le ho viste, ma le soprattutto... Le ha viste e le sa fare o no? Le ho viste e le non so le fare... Non faccio l'esame, non è no, che no, faccio non solo una... le ho viste e le so fare, però precisiamo, le delibere non le fanno, le fa il sindaco, non le scrive il sindaco, le scrive la classe dirigente, che infatti è quella che noi già troviamo nel Comune di Roma quindi, e che sarà Senta, poi... Ma lo stadio della Roma si farà oppure no? Stadio della Roma e stadio della Lazio, perché no? Sì, no rispettando le norme. Certo, lo stadio, volevo dire, scusi, Senta, dove? Si sa dove? Al momento mi sembra che il progetto sia a Tor di Valle, no? No, non so, chiedo a lei. Però sempre rispettando le norme. Lei ha detto se vinco io le Olimpiadi non si faranno, perché? Beh, la città ha bisogno di interventi sul quotidiano e sull'ordinario. Veramente questa è una città in cui le buche sono diventate programma di governo, che sembra ridicolo a dirlo, ma è così. E tutti i dati storici, economici, quindi ci dimostrano che le Olimpiadi insomma. Non solo non portano benessere alla città, ma portano debiti, perché oltre ai contributi del CIO, poi le città si indebitano. Io non credo che Roma abbia la capacità... Ne ha parlato con Malagò di questo, col presidente Ma mi auguro di poterlo incontrare, insomma. Senta, ma quali sono i temi di respiro nazionale su cui si confronterà con gli eletti parlamentari per trovare una sintonia? Lo facciamo già, per esempio tutta la tematica del lavoro, tutta la tematica del reddito di cittadinanza, l'ambiente, la gestione dei rifiuti, noi già lo facciamo, ma da sempre. Ma tra Casaleggio e Grillo a chi si sente più vicina lei? Ma al Movimento 5 Stelle. No, vabbè, no, ma è così? Sì, ci sarà uno dei due, forza. Ma li conosco poco entrambi. Sì, quante volte ne ha visto uno, quante volte l'altro? Gianroberto una volta e Beppe Grillo due o tre volte in occasione delle manifestazioni cittadine. Vabbè, Gianroberto solo il nome, Beppe Grillo nome e cognome, più vicino a Gianroberto. A tutte e due, hanno avuto una bellissima intuizione, è quella di far nascere il Movimento 5 Stelle. Senta, a proposito di Grillo, aver tolto il nome dal simbolo è un bene per il Movimento secondo lei o no? Ma è stata una scelta importante perché il movimento sta comunque iniziando dice di a camminare. Pensa di sì. Ma sì, certo. Ecco, senta cosa dice Crozza di Grillo che lascia. Vedi ragazzi come mi sono ridotto. Prima facevo la guerra a Bersani, adesso mi incazzo coi piccioni, vedi. Siete ancora ancorati alla rete. Oggi il futuro sono i piccioni, che cazzo dici? I piccioni. E i piccioni viaggiatori, no? Quelli ti portano la notizia in un attimo. Non fanno un cazzo tutto il giorno, mangiano una belimbolica. Potrà viaggiare, belì. Ma guarda che meraviglia. Non parlano, non vanno su internet, non ti contestano. Posso decidere tutto io. Scusi, non ha detto che faceva un passo indietro? Ma che cazzo dici? Io sono un megalomane. Mi ci vedi a casa a dare l'acqua ai gerani? Lei ce lo vede andare all'acqua Gerani? Io penso che abbiano fatto una cosa fantastica, quella di dar vita al Movimento 5 Stelle. Va bene, questo l'ha già detto. Lo so, però è così, guardi. E poi? E adesso? Lo vede adesso... dare l'acqua ai Gerani oppure no? Assolutamente no. Io vedo che continuano a rimanere a fianco di un movimento che sta prendendo piede. Senta, Avvocato Raggi, finiamo in allegria. Senta qui lei che canta Radio Rock. Aiuto. Che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Grazie. Vabbè, basta. Basta, abbiamo capito. Basta, abbiamo capito. Pietà. Allora, ma pensa di amministrare Roma come canta o meglio? Molto meglio. Molto meglio. Senta, un'ultimissima... Del resto mi sono candidata a fare il sindaco, no, non la cantante. Senta, avvocato, un'ultima domanda. Ieri era felice o triste? Insomma, Roma o Lazio? Vabbè, il derby è un importante, è un appuntamento importante. No, mi dica se tiene per la Roma o per la Lazio, forza! Se no lo dico io, guardi. Ma guardi, che cosa le devo dire? L'importante è che la partita è andata... Ma in realtà, no, guardi, mio marito... Si è capito da quando ha detto dello stadio. Io ho detto lo stadio della Roma si farà. Lei ha detto no, lo stadio della Roma è della Lazio. Sa che c'è? Che qui a Roma come si tocca una delle due squadre si scontenta l'altro 50% dei cittadini. Allora diciamo siccome le due squadre sono estremamente importanti e gloriose, meritano entrambe... Va bene, stadio. Niente cuore allora sul il calcio. Il cuore è sulla città, via. Sulla città, va bene, grazie. 800 24 00 24, numero verde. 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Vabbè, candidata forte, eh? La Raggi, che dici? Vuoi un commento? Sì. Ce l'ho. Vabbè, t'ha convinto, ho capito. Strada facendo, brava, ha risposto bene. Tu Pietrangelo? E mi ha colpito la tua domanda sul miglior sindaco del passato. Premessa che il miglior sindaco, l'unico sindaco degno del passato di Roma è la Lupa Capitolina. Premesso questo, perché poi tutte le altre citazioni. Allora, l'unico titolo che posso fare è La Podestà. La Podestà, vabbè. E ovviamente siamo d'accordo. Allora, cosa ci fai sentire oggi intanto, Pietrangelo? Arriva. Bello. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Allora? E allora è tutto un chiedersi oggi che succede. Una mattina, quella di oggi, fatta di respiri profondi e stranezze rimaste a galleggiare in testa fino a generare un urlo tutto di che succede. Ha telefonato il mare, ha richiesto questo brano, lo ha voluto dedicare alle montagne con un messaggio. Che succede? Andiamo in Maggiolone? Mario, la tua bolla? No, ho provato un'emozione adesso. Così Pietrangelo ha ricordato il Maggiolone, la mia adolescenza, sì. Praticamente. Ah, e ce l'hai avuta? L'aveva un mio amico più grande di me, io non avevo ancora la patente, ero piccolo e andavamo in giro con questo Maggiolone. Meraviglioso. No, vabbè. Vabbè, io l'ho avuto, fantastico. Pure tu sei di Generazione Maggiolone, vabbè. Vado di bolla? Vai di bolla. Dire qua, sì, vabbè, c'è Zorba il Greco, c'è il Sirtaki, c'è una tradizione, una grande cultura da cui tutti noi veniamo, ma ragazzi, le cose girano male, perché è appena uscito, anzi Wikileaks ha appena pubblicato un documento molto molto interessante, devo dire, su un meeting del Fondo Monetario Internazionale del 19 marzo, quindi freschissimo, come si dice in questi casi, dove insomma, per fartela breve, sì, c'è una frase che è micidiale. Run out of money vuol dire stanno finendo i soldi. La Grecia non fa quello che deve fare sul fronte delle riforme ed è un braccio di ferro continuo su un bailout, cioè su un salvataggio che vale 86 miliardi per l'Europa. Lo scenario prospettato in questo documento è che, appunto, finendo la cassa, entro luglio si vada in una situazione di nuovo di fallimento, cioè di default. Allora, la Lagarde ha scritto a Tsipras smentendo che le cose stiano così e che il Fondo Monetario prema per un default, come si diceva tra l'altro in passato, ma ahimè le cose invece vanno abbastanza in quella direzione. Se pensate che fino a giugno, cioè fino al Brexit, al referendum inglese, l'Europa su questi punti non affronterà niente, quindi la scadenza di luglio si fa effettivamente molto concreta. Messa così, siamo alla Grecia, che alla Grecia di nuovo tornerà in prima pagina un souvlaki allo yogurt. Salamino. Povero governo e fragile, delicato, tenero e la capa, pur sempre la capa, ma soffice, lieve e tenue, intervenuta nel dibattito a seguito delle dimissioni del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, e magari sbagliando, ma mai in malafede, la capa, pur sempre la capa, è apparsa così. Così! Il fatto è che da noi, Giovanni, essa di persona personalmente non si fa intervistare. No. Anche Lucy ieri, ovvero Lucia Annunziata, intervistando su Rai 3 Matteo Renzi, si è lamentata. Dice: Maria Elena Boschi non si fa mai intervistare da me. Renzi ha fatto la faccia di quello che quasi svela, si figuri, a me non rispondere neppure al telefono. Dunque, Giovanni, tu... non so, no, cosa sono dobbiamo in buona fare compagnia. Enrico Mentana aveva proposto un incontro con Di Battista, lei non ha voluto, non ha voluto. Mario, mettici una buona parola tu, che insomma tu sai, tu che sei il nostro boschista boschiano, boschevole. Purtroppo io vorrei molto, ma niente, non ti risponde neanche a me, solo con te. Comunque, parla piccola e fragile, intervistata di Jacoboni sulla Stampa, la capa ha puntato il dito contro il nemico del cambiamento e delle riforme necessarie alla nazione, e però povero questo governo. Tanto quanto la capa, come l'esecutivo guidato da Matteo Renzi, è cagionevole, morbido e assai fine contro questa compagine così dolce, si scatena l'era e l'ira dei poteri. Tutto quello che non mi appartiene me lo pago. Praticamente è finita che sia Marchionne, si chiama Sergio Marchionne, Davide Serra, sono tutti contro Renzi, tutti contro il governo. Sono poteri deboli. Sono deboli, deboli. Certo, quando diventano forti diventano contro. Adesso vedete, ma il grido di battaglia è uno solo. Uno solo. Tempa rossa non avrà il mio scalpo, cioè no, voglio dire, com'è? Corvo rosso non avrà il mio scalpo e vale un solo insegnamento tratto da quel grande film, cioè che il cuore di una donna giovane è la più dura delle rocce. Allora, i poteri sono forti e il potere non ha il governo. Come un tempo Pinuccio Tatarella, ministro dell'armonia, vice premier nel primo governo Berlusconi, ebbe a denunciare l'ingerenza dei poteri forti contro la rivoluzione liberale, così la capa, che è capa, vero pezzo da 90 di questo governo, ingaggia la sua battaglia contro i poteri forti e ogni governo perciò risulta al cospetto del canone dei canoni, né più e né meno che così. Beh, a musica! Niente meno che un'armata Brancaleone, però a cui noi rendiamo omaggio perché giusto 50 anni fa al Festival di Cannes veniva presentato questo meraviglioso film che racconta l'Italia come neppure i Promessi Sposi potranno mai fare, o forse la Divina Commedia, o comunque qualcosa di forte. Già il nome del cavallo. Vedi, no? vedi però armata Brancaleone, dopo 50 anni ne parliamo. Governo Renzi magari dura 50 anni. È pericoloso questo parallelo. Vorrei dire. Dica. Ma non hanno aquilante. Vorrei dire. Dica. Fino a poco fa c'era la podestà e si dice podestà. E duro 20 anni. Va bene, pubblicità, poi facciamo la bolla. Mix 24. Se mi sbaglio mi corrigerete. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Un'icona di vigore, un comunicatore instancabile, Giovanni Paolo II, è stato anche questo. 26 anni di pontificato che hanno rivoluzionato l'immagine della Chiesa. La forza del Vangelo portata in tutto il mondo con una caparbietà che sapeva trasformarsi in tenerezza. E ancora il dialogo con i fedeli che non si è mai interrotto, anche quando a parlare erano soltanto gli occhi. Quella parte di anima chiamata corpo. Giovanni Paolo II, dalla fisicità atletica dei primi anni di pontificato alla corporeità sofferente degli ultimi mesi. Un papa che ha voluto mostrare ai fedeli il mistero della fragilità e del dolore. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Canzoniere Pietrangelo. Eccolo. Tutti a rovelli talora come un indemoniato. Tu a grovigli tal'altra in guisa un affare che lo stesso Satana non vi si raccapezzerebbe. Tu metti al titolo una minuscola e non metti poi data o numero d'ordine. Maledetto allocco. Certo, è geloso che io sieda nel gabinetto del direttore che temperi le matite per sua eccellenza. A farla breve, io non andrei al ministero se non avessi la speranza di fare una visitina al cassiere e vedere se vi sia mezzo di chiedere a quell'ebreo una piccola anticipazione, sia pur misera, sul mio stipendio. 800 24 00 24, numero verde, 349 2 38 6666, l'SMS. Mario, la bolla? Ce n'è una bolla? Facile. Tell it wouldn't be long that he was with me. Bella, questa. Vai. I love rock and roll, stavo per urlare, vabbè. Brava Gloria, questa è la scelta lei. Io c'ho un exit tra poco, però a proposito di Brexit, poi tutti vi sorprenderete a giugno e direte c'era il referendum sulla permanenza del Regno Unito in Europa. Oh, cosa è successo? Oh, per Bacco, oh, per Dinci. È 43-39, sta guidando nei sondaggi l'uscita. Io vi dico sempre in questa trasmissione, tenete d'occhio giugno, quella data sarà importante perché potrebbe segnare il break up dell'Unione Europea. Adesso abbiamo aggiunto il dossier greco e dunque la mia uscita musicale, vi lascio tutti, è questa. L'altro giorno ci ha lasciato un amico, un grandissimo giornalista e un grande amico, vice direttore del Sole, Fabrizio Forché. Noi vogliamo ricordarlo con questa canzone scelta da Gloria Guerriera. Grazie. Ho scelto una canzone sull'amore di Fabi, Silvestri e Gazzè. L'amore non esiste. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde a più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste. Ma esistiamo io e te, la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggere. proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esiste amore.